Dicono che il sonno della ragione genera mostri. Questo lo dicevano gli illuministi, che iniziavano praticamente la loro costruzione filosofica in una maniera così radicale, intransigente, verso un mondo così conservativo, così autodifensivo, che praticamente avevano poi questa necessità di essere così prepotenti, no? Così feroci nella loro, dal loro punto di vista strettamente ideologico. E se pensiamo che il sonno della ragione genera mostri, che è comunque un dato di fatto, con tutta la distruzione dell'elemento culturale che c'è stato negli ultimi 30 anni, beh, qui il sonno della ragione genera mostri. Ci si viene da pensare al fatto che qui, più che il sonno della ragione, c'è un coma della ragione, un coma profondo della ragione. E quindi con questo vi do il buongiorno. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta 1,5 metri, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo subacco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, mo te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo a tutti quanti gli ascoltatori di Runtime Radio, benvenuti anche questa mattina ad aprire gli occhi e fare colazione con dei buonissimi motivi per cui essere incazzati. Ma prima di iniziare con i veri temi della puntata, dato che questa è la prima puntata di Buongiorno un cazzo che si svolge, si appoggia, scivola verso di voi tramite il nuovo server, lo so che ce la cantiamo, ce la suoniamo, ne stiamo facendo a peperini con questa cosa. E intanto voglio ringraziare Carlo Sant'Agostino, che è quello che fornisce il pezzo de ferro, il nuovo server sul quale noi stiamo ovviamente trasmettendo, e questo ci permette una maggiore autonomia, maggiore indipendenza e un maggiore controllo anche sulla nostra stessa qualità. Sapevamo che ci sarebbero potuti essere dei problemi e che probabilmente magari qualcos'altro ci sarà ancora, però siamo stati veramente molto rapidi nel risolverlo e risolverlo in questo. Ovviamente ringrazio Puccio Carmine Console e Walter Sbano, che si sono comunque sbattuti mentre io stavo lì dietro e facevo: beh, dai, forza, beh, oh, qui, beh, allora, beh, beh, ancora così stiamo, beh, ma non si sente, beh, ma si sente male, beh, beh, che state a fare? E invece loro lavoravano alacremente, sopportando, diciamo così, stavano lì e dicevano: mazza quanto rompe i coglioni questo. Però fa parte, insomma, del discorso. Allora, voglio farvi molto brevemente, prima di lanciare il brano che introduce un po' la prima parte, poi dopo parleremo di altro, voglio un attimo presentarvi quello che è il palinsesto attuale di Runtime Radio, che è già in esecuzione e che stamattina passa alla seconda puntata praticamente di quello che è il suo blocco, insomma, perché abbiamo trasmesso per diversi giorni questo palinsesto di prova con le stesse puntate. Invece già da questa mattina ci saranno dei cambi. Il palinsesto che vi sto presentando è sia live che non, e serve per far capire quello che trasmette Runtime Radio nell'arco della giornata. Poi faremo ovviamente dei file spot specifici proprio per ricordarvelo così che la mattina, subito dopo le trasmissioni live, parta ovviamente una sorta di mini palinsesto che possa ricordare insomma quello che va nell'arco di quella giornata lì. Allora, è abbastanza semplice, dall'1 alle 4, considerando che ancora il software di regia anche va fissato, e questo purtroppo non dipende da noi, stiamo attendendo ovviamente i fix e ci possono essere degli sminchiamenti su quelli che sono lo scheduling, che invece una volta funzionava perfettamente. Vabbè, comunque sono cose che risolveremo. D'altronde noi siamo Runtime, la Radio Geek, che se fossimo una radio professionale insomma avremmo i soldi per pagarlo un software serio, ma non ce l'abbiamo, quindi chi se ne frega. Quindi vi ricordo che la notte si inizia dall'1 fino alle 4 con le repliche di Runtime by Night. Questo ovviamente tutte le notti, poi piano piano a rotazione cambieranno le puntate, quindi ascolterete sempre le puntate diverse. Dalle 7 alle 8 ci sono tutte quante le live che voi già conoscete, che sono ovviamente le orazioni della il mattino all'oro in podcast, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, Disordinati Informati di Michela il martedì, e questa trasmissione, quindi Buongiorno un cazzo, il giovedì. Poi alle 8.30, 8.45 invece trasmetteremo una puntata trasmetteremo una puntata degli scimmioni non leggono Nietzsche, mentre che dalle 9 alle 10 trasmetteremo una puntata dei Techno Pills, dalle 10 alle 12 trasmetteremo una puntata di uno dei nostri storici podcast videoludici, quindi a scalare si inizierà l'archeologia videoludica, dietrologia videoludica e poi tutti quanti gli altri. Dalle 12 alle 13 c'è una puntata di Data Nightmare, dalle 13 alle 14 c'è Snap, dalle 14 alle 17 un podcast di quelli storici generici, che partiamo da 70 anni 80 in questo periodo, che poi è un po' diciamo il prototipo molto leggero di quello che poi è diventato quando eravamo futuro. E poi la sera torna la live dalle 20 alle 20.45 il martedì, mercoledì e giovedì con le orazioni della sera di Walter Sbano, e poi tutte quelle che sono le trasmissioni che vengono trasmesse, che di solito la sera sono alle 21 alle 21.30. quindi ricordiamo, alle 21 il lunedì sera c'è OGM, il giovedì alle 21.30 invece c'è Quando eravamo futuro, e poi ci sono vari programmi insomma random che vengono trasmessi insomma durante l'arco della settimana, qualora ci sono speciali o motivazioni per fare qualcosa di specifico. Bene, questo è un po' più o meno, anche se ve l'ho detto magari in maniera un po' confusionaria, questo è comunque un po' il palinsesto della nuova Runtime con il nuovo server. E se ovviamente, vi invitiamo sempre durante l'arco della giornata, come ho visto che succede, qualcuno ascolta Runtime Radio, e questo mi fa veramente piacere, e notate dei problemi, degli sminchiamenti sullo scheduling, fatecelo sapere. Ho visto la gente della mia età andare, Dio risorto, Dio risorto. E vi do il benvenuto con i Nomadi, Dio è morto. Era insomma l'unica maniera con la quale avrei potuto partire questa mattina. Intanto saluto Walter, saluto Leo Vargion e Michela, che ci ascolta direttamente dalla macchina. E facendo un discorso molto molto più semplice, io stamattina sono partito un po' con gli illuministi, dicendo che chiaramente il sonno della ragione genera mostri, è il periodo filosoficamente più adeguato insomma alla mia mentalità, anche se comunque poi gli illuministi portavano certi concetti in senso proprio estremizzante, anzi forse mettevano l'idea, il principio al di sopra di qualsiasi cosa, compresa l'umanità stessa, no? Perché spesso e volentieri si parlava anche di distacco dalla propria ragione sentimentale in favore di una ragione più evoluta, no? Quella ovviamente della filosofia, del concetto. Ma l'illuminismo è stato un periodo profondamente rivoluzionario che ha poi comportato una reazione, quindi una reazione restauratrice, diciamo, no? Il periodo del romanticismo, che poi dopo alla fine comunque del neoclassicismo, che poi ha portato a una controrivoluzione moderata, no? Quindi praticamente la storia fa questi balzi, no? In qualche maniera arriva la botta, si cerca di tornare indietro, però poi alla fine comunque il messaggio la rottura che ha portato la prima rivoluzione in qualche maniera si insinua all'interno degli elementi culturali della società, e questo è una cosa che ha smesso di succedere poi fondamentalmente. E al di là di quello che è successo con le varie sentenze della Corte Costituzionale relativamente all'ammissibilità dei vari referendum, c'è da dire molto, ci sarebbe veramente da approfondire, e mi piacerebbe, se riesco, ad organizzare magari un bel forum con persone che siano abbastanza competenti, perché chiaramente bisognerebbe anche approfondire il concetto, il perché, dove ci si è attaccati, a quale cavillo, no? Perché chiaramente sono anche delle tematiche abbastanza complesse, soprattutto il discorso del fine vita. Non possiamo riassumere il discorso con è giusto o è sbagliato, c'è tutta una serie di sottostrati, di concetti, di elementi che andrebbero approfonditi. Però c'è un però importante, che questa mattina, già ieri mattina in realtà, ma questa mattina ci svegliamo e siamo un po' più brutti, siamo un po' più sbagliati, siamo un po' più indietro, siamo un po' più ancorati, siamo un po' più incatenati, siamo un po' più imprigionati, siamo un po' più tarpati, siamo un po' più fermi, bloccati da un contesto che ci circonda e che vuole che anche noi ci si adegui a questo tipo di situazione. Perché ne ha parlato ovviamente Walter Sbano ieri nella relazione della sera. Non ne parlerò io perché non entro nel tema, ne ha parlato poco, ma in maniera insomma sufficientemente, insomma, nel modo in cui forse l'avrei fatto anch'io, perché tanto che vuoi dire, no? Però è più il concetto, quello che ci lascia, no? È che oggi noi ci svegliamo e non siamo più scandalizzati, non siamo più delusi, non siamo più feriti, non siamo più rammaricati, non sentiamo il fatto che è stato strappato un ulteriore elemento di diritto all'interno di una società che vorrebbe evolvere, non lo percepiamo più questo. È lì che ci hanno sconfitto, è lì dove il sistema ha vinto, è lì dove alla fine noi ci siamo adeguati, che noi oggi ci svegliamo, facciamo colazione e la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sul fine vita, mannaggia. Perché poi è questo quello che oggi succede, per chi dice mannaggia, perché poi c'è ovviamente qualcuno che esulta, ma vabbè, lì ne abbiamo già parlato ieri sera, no? Nel senso che tutta questa sottosocietà che oggi alla fine tiene incatenato tutto il resto del sistema, alla fine è quello che si nasconde dietro il culo dei preti, e meglio sta dietro al culo dei preti, insomma, sapete, perché se gli state davanti è un po' un casino a volte, e questa poi è la cosa che secondo me invece alla fine è l'elemento che è più deludente, no? Quello che oggi ci dovrebbe far riflettere di più, il fatto che non siamo più delusi, non ci sentiamo feriti, non siamo arrabbiati, non ci disperiamo, è così, è un dato di fatto, già è andata così, e vabbè. E quindi noi dobbiamo ritrovare il nostro elemento riottoso, ribelle, quel senso di ribellione, di disobbedienza, di contrasto a una società che proprio sulla nostra abitudine si è insinuata, si è ramificata, ha messo radici in maniera così profonda all'interno di questa nostra vita quotidiana. Si sono insinuati perché noi ci siamo abituati a questo, perché dopo il periodo berlusconiano ci siamo abituati. C'eravamo abituati a vedere le persone che dicevano Berlusconi buffone, si è preso dalla Digos, è nascosto dentro un negozio, preso a pizzettoni e poi forse rilasciato dopo chissà quante ore. Ci siamo abituati al fatto che se c'è una manifestazione di un certo tipo può andare a distruggere magari delle sedi dei, dei sindacati, però poi dopo se i ragazzi, se gli studenti scendono in piazza per dire oh regà, a noi mica ci sta tanto bene che andiamo a fare alternanza lavoro e poi magari schiattiamo, no, lì botte, perché chiaramente è quindi quel disegno che una volta veniva considerato eversivo, di quella insinuazione, di quella ramificazione di una certa volontà politica che è diventata oggi sistema, e noi la dammo per scontata. Vabbè, è così. Che ci vuoi fa? E questa è la cosa più grave. Perché poi alla fine, quando si sono spente tutte le luci, ha vinto Licio Gelli. Cioè, è tutto qua un po' il discorso, che il sistema è diventato così. E se una Corte Costituzionale deve esprimere un consenso o non consenso sulla fattibilità di un determinato referendum, che dovrebbe essere la massima espressione di quello che la democrazia in realtà è rappresentativa, perché cioè rappresenta, perché è vero che la nostra democrazia è rappresentativa, ma è anche vero che la Costituzione prevede la chiamata al voto su determinate tematiche specifiche, qualora la popolazione lo richieda, direttamente sugli argomenti. Questo è sempre stato così. Ma se una Corte Costituzionale, ovviamente con i suoi strumenti, perché io oggi non sarei in grado di contestare quello che loro dicono, ok? Quindi le obiezioni che loro fanno, ma se una Corte Costituzionale finisce per non essere più la difesa della Costituzione, la tutela ovviamente delle leggi fondamentali, ma diventa un organo politico e fa delle decisioni politiche, ha ucciso il sistema, ha ammazzato il sistema. Se la Corte Costituzionale oggi è rappresentata da determinati elementi che sono legati e vincolati a determinati presupposti ideali e ideologici, oggi la Corte Costituzionale è un organo politico e quindi viene meno alla sua funzione, perché guarda caso quali sono i primi due referendum bocciati, proprio quelli che fanno leva su una ragione etica, sociale e di progresso nei confronti del libero arbitrio e della scelta delle singole persone. Perché se tu sei cattolico, se a te ti piace essere legato a delle figure mitologiche degne dei libri di Tolkien, dato che poi ne parliamo, è un affare tuo. Vuoi vivere intimamente la tua fede? Vorresti una società anche che rispettasse determinati principi e determinati modelli? Ok, ma la religione dovrebbe essere esclusa dalla politica. E invece noi abbiamo fatto 70 anni di politica con la religione, e non solo per il Vaticano. Non solo per il Vaticano, perché il Vaticano era chiaramente un elemento, ma questa era una cosa che facevamo noi. Noi c'era il partito del Vaticano, c'era la Democrazia Cristiana, ok? Ma quella Democrazia Cristiana, che quando è deflagrata si è sparpagliata in tutto l'arco costituzionale, quindi danneggiando ancora di più, perché una volta comunque c'erano i radicali, c'erano i socialisti, c'erano i socialdemocratici, c'erano i liberali, quindi un movimento appartenente all'area di destra, che non avevano nulla a che fare con questo tipo di presupposti, non ci avevano, anzi forse tante leggi che poi sono passate, tante evoluzioni della nostra società arrivano anche grazie a queste forze politiche, anche a quelle forze di destra che avevano una visione liberale e atea della società. Quelle leggi che oggi noi ci vantiamo di aver portato avanti anche grazie al referendum negli anni 70, quando la società era in pieno fermento, oggi non sarebbero passate. Oggi la legge sul divorzio e sull'aborto non sarebbero passate. Forse quella sul divorzio sì, perché ricordatevi sempre che fino a che si tratta dei cazzi nostri, poi dopo lì diventa, no? Cioè, nel senso, è come la questione del Dio punitore, no? Ah, Dio, puniscili tutti questi che si comportano male, però non punire me, perché io no, io sono bravo. questo è un po' l'elemento sul quale bisogna riflettere. Non bisogna riflettere sul fatto che la Corte Costituzionale, la Consulta ha bocciato determinati referendum. Quello sul quale vi dovete interrogare è perché non siete incazzati. Immagino ci sarebbero state bene delle canzoni più riottose, più violente. Invece stamattina tutti i brani pop del cazzo, quindi. Però sono carine, sono canzoni carine. Questa è Coco con Shining Shining, che lei dice Sine. Insomma, la pronuncia un po' in maniera strana. Assolutamente. E vediamo un attimo alla chat. C'è Francesco che fa ma porco. E vabbè. Walter dice che se raccogliere 1 milione di firme per promuovere 2 referendum che sono stati fondamentali, fondamentali, sì, aspettate che la base, perché la politica dal canto suo ignora scientemente certe istanze della società civile, non serve a niente, cominciamo a perdere la voglia di provare a salvare questo paese. Allora, questo è comprensibile, perché lui dice sì, siamo, nel senso, lui nel suo messaggio dice che lui ci sentiamo feriti, stanchi, delusi, incazzati, ma in realtà questa è una diciamo è l'espressione di una tua opinione, di una tua posizione, perché tu sei sensibile a queste tematiche e quindi ieri in particolare ti sei incazzato, ma in realtà non ho la stessa percezione in senso generale, quindi è questo che secondo me avvalla un po' il mio discorso, che non è che voglia averci ragione naturalmente, però la mia percezione è che ok, noi stavamo incazzati, poi ti giri intorno e la gente parla di stronzate, quindi poi alla fine ci siamo abituati. Una volta, quando succedeva qualcosa di clamoroso dal punto di vista etico, politico, diciamo così, anche i telegiornali ne aprivano, ma siccome viviamo appunto una società totalmente ammortizzata da questo punto di vista, è chiaro che la gente forse neanche se rende conto, anche dice ah, ma forse è meglio così, no vabbè, ma poi chissà come gliel'hanno presentato, no, perché ovviamente non essendo più adeguato, cioè attento a quello che succede in televisione, magari certe tematiche vengono presentate come il brutto referendum che vuole uccidere la gente, quindi il problema è quello, e poi tu fai un'esaltazione ai giovani, ma io invece la penso totalmente all'opposto, secondo me, e mi sono reso conto di questo, che i giovani, al di là di come la vediamo noi, hanno già sviluppato un proprio pensiero, una propria criticità, e questo soprattutto sulle, sullo stato di cose, sulla diversità, sull'inclusività. Sono già cresciuti in una società che vive con quei presupposti, anche contro la nostra volontà in generale, non dico nostra, noi. E quindi loro hanno già una visione completamente diversa, ma io questo me ne rendo conto parlando con Matteo, vedendo anche gli altri ragazzi, che comunque per loro certi discorsi sono il presupposto naturale. Quindi se rivediamo i ragazzi che vanno in piazza, è perché questi ragazzi sostituiranno questa fase morente della nostra classe politica, che comunque è morente. Poi certo che se il nuovo in Italia è rappresentato da Di Maio, che è un essere insignificante, che non ha nessun presupposto né arte né parte all'interno del contesto, non ha la cultura, non ha la capacità di contestualizzare, non ha la profondità storica né politica per poter affrontare le cose, e noi viviamo di questa propaganda di Di Maio che va in Ucraina, in Russia a parlare. Ma Di Maio avrebbe preso il treno, sarà andato lì e gli hanno detto: ah, lei chi è? Scusi, Di Maio. Però Di Maio è andato, ha risolto i problemi, Di Maio. Quindi viviamo su una narrazione che è la falsificazione, che è la mistificazione di tutto quello che realmente succede. Quindi sono abbastanza convinto che in realtà questi ragazzi che oggi sono incazzati e che non si sono fatti imbrigliare neanche da quella stronzata del Movimento 5 Stelle, che era proprio il movimento perfetto per il boomer, per quello di destra che cercava un qualcosa che lo identificasse come diverso, no? Come io sono onesto, oppure quelli di sinistra che erano rimasti delusi da una sinistra che non esiste più, e avevano convogliato tutta quella generazione a votare un movimento che si è autodistrutto per questioni naturali. Noi 4 anni fa lo dicevamo in OGM scherzando, prendendo per culo, dicevamo la fine di questo movimento è qui, ed è successo, ma perché non siamo dei veggenti, ma perché era una logica conseguenza, era un dato di fatto, cioè era proprio il presupposto sul quale si fondava tutto quanto il discorso. E quindi questa nuova realtà politica che avrebbe dovuto portare una ventata di acqua fresca, che facevano le sceneggiate per rompere il cazzo a determinati politici, tipo vedi Bersani ad esempio, al di là di Bersani, però è così, allora i live streaming per dire no, no, no, tempo 3 mesi si sono venduti le mutande e il culo che ci hanno dentro le mutande, tempo 3 mesi. Perché erano delle puttanelle messe lì senza né arte né parte, senza una cognizione politica, che obbedivano al comando di uno che ha costruito un movimento politico per una sua vendetta personale contro la società, per una sua vendetta personale contro la stampa, per una sua vendetta personale contro la politica. Politica nella quale lui ha sguazzato fino a che gli ha fatto comodo, prendendo le tessere di quel partito comunista che tanto oggi disdegna e andando avanti grazie a quello. Quindi alla fine, fondamentalmente, la situazione politica in Italia è una merda, ma non è una merda solo perché c'è Berlusconi, è una merda perché siamo stati abituati a questo. Perché il giorno in cui il Parlamento, che è la più alta istituzione democratica del nostro paese, ha dovuto votare se Rubi era o non era la nipote di Mubarak, la democrazia è finita lì, è morta, ne è morta proprio il senso di dignità. Questo è il vero dato del fatto, perché a questa democrazia ci crede solo mia moglie oramai, che se la via con la Cina perché è un paese antidemocratico. Ma come dice giustamente Walter, se io ti porto 1,5 milioni di firme, e quel 1,5 milioni di firme, che sono anche rappresentative di chissà quanti altri milioni di persone che comunque sostenevano quel tipo di principio, di idea o roba del genere, non serve a niente. E siamo come la Cina. Quindi alla fine, di che cazzo si stiamo a lamentare? La democrazia, così, non serve a niente. You remember when we were out last week? This girl. Yeah. What about it? Well, she blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rump, bump, bump, bump. Huh. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around. remember what happened? Remember stepping through the club, right? DJ only turned it up, right? She was working through the song, you were looking all along, even touched your ding dong, right? So tell me, what's it your face plans when you put your hands in her pants? Or maybe when you hit the guard and beat in that car, kept acting like a rock star. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you're acting like a douche, of course you will lose, yeah. If you're acting like a douche, of course you will lose. Run around, run around, run around, run around, run around. Dusce, non so come hai sentito la, cioè come sei legge sta cosa. Dusce, comunque Dajana, Dajana, l'abbiamo già messa Dajana su Runtime Radio, la radio geek. Comunque sì, abbassiamo Dajana che c'ha un po' rotto i coglioni. Comunque anche questo brano carino. E salutiamo anche Vincent Valentine che ci è venuto a trovare anche lui dicendo buongiorno a tutti e insomma ricordando che stiamo biastimando da un sacco di tempo. E vi sento da 20 minuti ma ero preso a non stamparmi sulla tangenzia, hai ragione infatti. Poi finisco un attimo il discorso pure de Walter. Vabbè, ci sono quelli che pensano che l'eutanasia no perché Dio non vuole, che poi vabbè sì, vabbè, ma allora questa cosa che ne abbiamo, cioè io poi mi sono espresso anche ieri, però in generale ne ho già parlato di questa cosa e l'ho detto anche prima. Allora, innanzitutto immaginare che ci possa essere un Dio, e qui vengo un po' anche un po' a quello che ha detto già Walter in un'altra, magari in altre occasioni, però forse non so, magari mi sono immaginato che l'ha detto, poi non l'ha detto, però insomma immagino l'abbia detto. Immaginare che ci possa essere un Dio, quindi un'entità super partes che governa l'universo e che guarda con amore, perché lui è l'amore, tutti noi, e pensare che lui nel guardare tutti noi guarda una persona che è assolutamente vigile nella mente, ma completamente ferma nel corpo, quindi non può parlare, non può muovere gli occhi, non può muoversi, non può interagire, non può alzare il braccio, non può cagare, non può pisciare, non può scopare, non può camminare, non può scegliere di andare alla finestra a prendere una boccata d'aria, non può leggersi un libro, non può ascoltarsi una canzone, non può fare un cazzo. E pensare che c'è questo Dio che sta lì e guarda tutto questo e dice ma io ti amo. E se quella persona dovesse un giorno decidere in qualche maniera, e forse qui è l'aspetto più critico di questo aspetto del discorso dell'eutanasia, di comunicare in qualche maniera che se ne vuole andare, non, Dio non si può incazzare. E la cosa che mi fa più arrabbiare di tutti questi movimenti è che loro utilizzano una terminologia che loro pensano che li mette in salvaguardia, capito? Che li mette, come posso dire, inattaccabili, perché quelli che ti dicono noi siamo per la vita, ma che cazzo vuol dire che tu sei per la vita? Perché l'altro so per la morte. Voi pensate che morire sia una scelta facile? Voi pensate che la persona che anche ha scelto di morire non abbia paura di morire? Voi pensate che sia così semplice prendere una decisione così estrema, così drastica? Ma ci sono delle condizioni umane nelle quali una persona non è più in grado di sostenerlo mentalmente, perché quelle persone che voi volete continuare a vederle vita in vita perché siete per la vita, stanno impazzendo, si stanno sgretolando, stanno perdendo la loro anima, si stanno distruggendo, stanno diventando delle cose inesistenti, dei corpi che ancora hanno un qualcosa di vitale, che ancora hanno qualcosa della loro anima, ma che si stanno disperdendo in qualche maniera. Ma voi immaginate la follia di essere fermi e bloccati per anni all'interno di un cilindro al buio. Immaginatevi questa cosa, ragazzi, ma cioè di che cazzo stiamo a parlare? Cioè la vita, perché Dio si arrabbia, vuol dire torturare delle persone. Poi il modo in cui si debba arrivare a una decisione, che quelle persone riescano effettivamente a comunicarcele, che vanno comunque difese e protette fino all'ultimo momento, perché chiaramente la vita va sostenuta a prescindere, io sono d'accordo. Ma poi in continuare a insistere su un certo tipo di discorso, accanirsi solo perché voi volete la vita, quando non sapete neanche che cos'è la vita, è una cosa ridicola, inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Questo è, secondo me, il grosso del problema. Tutte queste persone che si nascondono dietro la vita, dietro la bontà, dietro l'amore di Dio, dietro il fatto che la vita è un diritto, perché loro poi sostengono, e questa è ancora l'ulteriore ipocrisia, l'ulteriore meschinità, perché si tratta proprio di meschinità, di pochezza, di vigliaccheria, di stronzaggine anche, no? Che comunque il diritto alla vita va difeso, il diritto sì, il diritto alla vita va sostenuto. Ma gli altri diritti? Hai il diritto a non poterla più sostenere, la vita? No. Quindi loro mettono il termine diritto su una cosa che per loro è un obbligo. Cioè tu devi campare. Poi come campi sono cazzi tuoi. Se soffri, se stai morendo, se hai dei dolori che sono insostenibili 24 ore su 24. Ricordo c'era un tizio tempo fa che praticamente c'ha una macchina che gli inietta praticamente morfina ogni quarto d'ora, piccole dosi ovviamente, perché lui praticamente vive 24 su 24 con dei dolori lancinanti, e giustamente questo vuole morire, perché non è la possibilità, insomma, di poter campare e pensare serenamente al fatto che Dio vuole che noi siamo contenti e che sosteniamo la vita, no? Vabbè, comunque poi alla fine io devo parlare di qualcos'altro, però vabbè, volevo anche fare un accenno al discorso della guerra, però poi ne lo facciamo la prossima settimana, perché anche qui, no, cioè anche qui è un atto d'arroganza nei confronti di uno stato sovrano che non vuole che gli vai a rompere il cazzo sotto casa, capito? E siccome che andare a rompere il cazzo e far vedere quanto ce l'ho grosso io, vecchio ottantenne che a malapena riesco a rimanere in piedi durante un comizio, devo far vedere quanto ce l'ho grosso, perché giustamente oggi forse un americano su 20 forse oggi voterebbe per me, e allora, capito, no, bisogna andare a rompere il cazzo anche quando tutti stanno andando verso la via diplomatica. Chi è che dice no, non è vero, no, chi è, non è, però detto, ne parliamo un'altra volta, perché assolutamente non si può fare. E perché volevo parlare di un'altra cosa, ma ne parlo oramai brevemente, però ne parlerò. You think you know me? Say I'm as cold hearted as they come. You think I'm slowly I'm Ah, Gansucella, Gansucella, bella, bella, sì. Forse dei Negriffi ne parliamo la prossima volta, sì, anche se voglio fare un piccolo accenno. Comunque, In the Name of Love, ragazzi, vi piace questa canzone, In the Name of Love, eh? O la cancello, che dite, la cancello? La cancellerò. Comunque, Leo, giustamente, che salutiamo perché mi sa che non l'abbiamo salutato prima, dice: piano piano abbiamo svilito la democrazia ad un concetto di io faccio come me pare, lasciando da parte il discorso di società e di comunità per cui è stata creata dopo la seconda guerra, vabbè, io dico la seconda guerra mondiale. Tra l'altro, questa cosa mi fa pensare, vabbè, Walter gli risponde: no, io faccio. Aspetta, qua è peggio, Leo. Ci siamo a tu non puoi fare come me, come te pare, cioè sì, perché in effetti è un po' quello. Tu non puoi fare come te pare perché non sta bene a me. Però questa cosa che ha detto Leo mi fa anche ricordare il fatto che quando ero ragazzino io, a livello internazionale, la Costituzione italiana, che era la Costituzione post guerra chiaramente, con tutto quello che ne conseguiva, il fatto che venivamo da un regime fascista e via dicendo, fosse considerata a livello generale, appunto internazionale, una delle migliori costituzioni, delle più moderne costituzioni che erano mai state scritte, forse perché erano anche a ridosso, cioè erano anche una delle più moderne nel senso anche temporale, no? E sarebbe, era da tantissimo tempo, io ve lo dico, forse dai tempi di tutto un podcast, che io volevo fare un podcast, quindi una trasmissione anche su Rant Time Radio, sugli articoli della Costituzione, cioè nel senso ogni puntata leggere un singolo articolo e magari spiegarlo o farlo spiegare a qualcuno. Quindi la cosa complicata è che per ogni puntata, per ogni articolo, bisognava trovare qualcuno che ci desse poi magari un'estensione del concetto, chiaramente. E una cosa che non è detto che io non farò, insomma, prima o poi, perché è una cosa che mi è sempre rimasta lì. Tra l'altro, rispetto a quando è stata redatta, ovviamente la Costituzione nel frattempo, in questi 70 anni, è anche un po' cambiata su determinati punti, e quindi io partirei proprio dalla Costituzione originale per capire poi magari dove questo tipo di discorso è cambiato, perché secondo me quello che la gente non sa, quando sentiamo parlare gente dei diritti naturali e costituzionali, tanto per fare una citazione, secondo me la gente neanche lo sa, cioè sa che quello che suppone, che quello che dice abbia un senso, perché si immagina che nella Costituzione siano difesi determinati principi, però sono abbastanza convinto che la gente non conosca la Costituzione in generale. E la Costituzione non è soltanto un elemento di principio, ma è proprio la legge zero, cioè è comunque la carta sulla quale sono scritti i principi fondamentali con i quali le leggi di quel paese devono essere sviluppate. E quindi, insomma, quando tu mi dici che il referendum non può essere accettato perché non, insomma, diciamo, non difende la vita a sufficienza, o perché è contro la Costituzione, tu prendi una decisione politica. Questo è senza dubbio, insomma, abbastanza incontrovertibile, però appunto bisognerebbe trovare qualcuno con cui parlarne. Per quanto riguarda il discorso del vedere la società come la voglio io, perché io, e qui è un discorso che abbiamo fatto appunto milioni di volte, sul fatto che la fede è un atto privato con la quale tu ovviamente definisci la tua esistenza e vuoi che la tua esistenza si muova in conseguenza alla tua fede, ma questo non può e non deve condizionare una società che è composta da milioni di persone con migliaia di fedi e visioni diverse, che non ci può essere una unità da questo punto di vista. Ed è anche questo un principio obsoleto, quello di legare una nazione a una religione, perché noi già da Costituzione ci proclamiamo paese laico, però dobbiamo avere le croci dentro le classi scolastiche, e questa è una distorsione politica, non è una distorsione costituzionale. E questo, insomma, penso che sia abbastanza chiaro, poi fondamentalmente come tipo di principio. E niente, poi alla fine mi toccherà fare una puntata extra per parlare di Stine Greffi, perché purtroppo non voglio, nello specifico, così lo dico anche, non voglio assolutamente parlare dell'elemento Signore degli Anelli barra Tolkien in sé, in quanto non sono un esperto, sebbene da quello che ho capito io, insomma, questa serie televisiva del Signore degli Anelli andrà a raccontare degli elementi che non sono raccontati poi fondamentalmente, ma sono semplicemente citati, ossia il prologo del Signore degli Anelli, cioè il famoso prologo del Signore degli Anelli che racconta di un'era e di una situazione. Ma il problema qui è questa cosa, questa, nel giorno in cui abbiamo i referendum che sono stati mandati a puttane, dove ci sono delle tematiche ovviamente importanti, certo, vedere questa polemica importante che si è creata, insomma, sui social, su YouTube, questa guerra di fazioni per difendere il fatto che sul Signore degli Anelli ci sia o non ci sia un elfo di colore e la principessa dei nani di colore, io lo trovo raccapricciante, non lo trovo ridicolo, lo trovo raccapricciante perché non c'è motivo di essere. Cioè, noi dobbiamo incominciare a ridare alle cose la giusta dimensione, la giusta importanza. Non che il Signore degli Anelli non abbia importanza, voi sapete che io sono un fan del fantasy sfegatato, anche forse oltre ogni limite, perché poi molti dicono: ma il fantasy in finale è una merda. Sì, è una merda il fantasy, ma a me mi piace, quindi alla fine. Però bisogna ridare alle le cose la giusta dimensione. Cioè, il fatto che ti dia fastidio che ci siano determinate cose che non erano contemplate in quel tipo di narrazione, sono d'accordo, lo posso anche capire, ma non può essere un problema, ok? Non può essere un problema, anche perché se io come autore, questo in generale, poi dopo appunto farò una puntata e ne parleremo di questa cosa, perché spero che magari in una settimana dove non succedano cose mi facciano bestemmiare, perché ultimamente, insomma, alla fine io sono stato abbastanza tranquillo, al di là degli elementi che... Comunque, se io sono un autore, ok, e leggo il tuo libro e voglio fare un film su quel tuo libro, cioè tu in quanto autore non puoi pretendere che io faccio il film sul tuo libro così come è scritto. Uno, perché non è fattibile, e due, perché allora io che cazzo lo faccio a fa? Cioè, dov'è l'elemento che io ho tratto dal tuo libro? Cioè, dov'è la mia reinterpretazione, il mio voler mettere una firma su una cosa che mi ha colpito, mi è piaciuto e che voglio raccontare a modo mio? Questa è una cosa sacrosanta, ragazzi, è un principio sacrosanto, al di là della polemica dell'inclusività. E poi io ho l'impressione, sul discorso dell'inclusività, e questo lo metto in mezzo anche me stesso, perché secondo me è un'analisi che ho fatto su me, e che all'inizio, quando io contestavo sta cosa dell'inclusività, al di là del politicamente corretto, che è un discorso che mettiamo proprio da parte perché già lo sapete che cosa ne penso e quanto per me sia un abominio fondamentalmente, però sta cosa dell'inclusività, cioè, alla fine, non è, cioè, all'inizio io dicevo, ma che c'entra quello, che c'entra quella. In realtà, secondo me, atavicamente, dentro di me, nella parte più inconscia, mi dava fastidio vedere una cosa diversa. E quindi è proprio questo che, secondo me, l'inclusività nella televisione sta cercando di scardinare. È abituarci al fatto che ci sia anche quello. Poi, una cosa è fare Re Artù de colore, e allora lì te posso dire che cazzo stai a fa. Una cosa è inserire all'interno di un contesto fantastico degli elementi che nessuno mi ha detto che ci sono o non ci sono, oppure io ce li voglio mettere. Guarda un po', a chi faccio offesa? A nessuno, oggettivamente. Poi a noi ci può anche dar fastidio, però rendiamoci conto che questa polemica, al di là del purista tolkieniano, insomma, che anche tra puristi tolkieniani ho visto che c'è una bella guerra, quindi pure lì, insomma, c'è da fare chiarezza. In realtà, alla fine, quello che ci dà fastidio è vedere la cosa diversa. Perché l'immagine dell'elfo bello con gli occhi grigi, biondo, con i capelli lisci, tutto mezzo lucente, patinato, perché l'elfo è la creatura magica, tu lo metti di colore, oddio! Oddio! È come pittore disegna un angiolino negro sul tuo quadro. Cioè, è la stessa cosa, regà. È la stessa cosa. Non si sta a piar per culo, non famo discorsi, ma Tolkien non aveva. Ma quando Tolkien scriveva, o ancora meglio, quando venivano scritte determinate leggende anche più anticamente di Tolkien, che insomma Tolkien alla fine era fine secolo scorso, diciamo, fine Ottocento, quando venivano scritte determinate storie, non c'era la visione dell'inclusività, perché in quella società non esistevano quegli elementi. Ma oggi nella nostra società quegli elementi esistono, e qualora tu non vai a stravolgere un principio, che è quello di Re Artù Negro, allora hai il diritto e il dovere di immaginare che anche in quella società ci potesse essere comunque una rappresentazione più variegata. Senza considerare che stiamo parlando del fantasy. Il fantasy che è per definizione il genere più razzista di tutti. Perché proprio si parla di razze e di distinzione per razze. Quindi, cioè, voglio dire, alla fine... Damogli un attimo una spiallata, no? A sto povero Tolkien che per carità io volemmo bene, bravo, quello che cazzo ti pare. Cioè, però prendete un'opera come The Witcher, dove allora questo elemento per suddivisione per razze assume anche una connotazione sociale e politica. Non è semplicemente io sono l'elfo, sono magico, campo in eternità, tu mi stai pure un po' sul cazzo, allora io me ne vado, però sono bianco, sono bello, mi muovo e non mi senti, non lascio le tracce, so arciere perché ammazza quanto ci vedo da lontano e via dicendo. Cioè, nel senso, alla fine, regà, per dirla come lo diceva, insomma... una signora che conoscevo io che faceva la taglia, ma sti cazzi. Oh yeah, amaro, yeah, me like it. Every time you wake up stunning with no makeup, me like it. How you call my name up got me feeling way up, me like it. Haters trying to break us, them know they can shake us. Get ready to take off, okay. Yeah, up, up and away we go. I can never find nobody like you, my baby. Oh, hit him one time, yeah. She no play no game, you know. I can never find no hottie like you, my baby. Oh. Would you be my number one? Number one, A, number one. Number one, A, number one. Number one, A, number one. Won't you be my number one? Number one, A, number one. Number one, A, number one. Number one, A, number one. Yeah. Me like it. How she moving real slow when she pulling me close. Me like it. When we kiss and make up, she be getting paper. Me like it. Girl, that body so tight. Gonna be a long night. Me like it. Baby, me no chaser. Nothing can replace us, okay. Yeah, up, up and away we go. I can never find nobody like you, my baby. Oh, hit him one time, yeah. She no play no game, you know. I can never find no hottie like you, my baby. Would you be my number one? Allora ragazzi, vabbè, dai, che andiamo a chiudere, perché veramente sono 56, non me ne sono manco reso conto. Walter giustamente dice: io non condivido, se tu vuoi parlare del mio libro fai come ho fatto io. Sì, sì e no, ma in realtà l'opera, cioè il mondo del cinema, del teatro è pieno di reinterpretazioni e di scritture, fa parte proprio del movimento culturale, raga, essere rigidi e intransigenti può servire fino a un certo punto, tant'è che noi abbiamo visto decine e decine di film, decine e decine anche di reinterpretazioni teatrali riviste con delle chiavi diverse, perché anche nello spirito delle cose ci sta, è divertente anche tutto sommato, altrimenti non ha proprio senso il dover riproporre un qualche cosa, no? Poi tra l'altro qui stiamo parlando di una storia dove Tolkien neanche è intervenuto più di tanto, insomma, cioè nel senso che alla fine lui fa un preambolo, mette lì, insomma. Comunque, vabbè, questa è una visione delle cose in generale, perché secondo me avere l'opportunità di reinterpretare, io comunque feci un esperimento una volta, presi la canzone Il Pescatore di André, e la reinterpretai in una sceneggiatura per un cortometraggio, e quello che uscì fuori fu anche una mia una chiave psicologica diversa rispetto a quella che magari era la canzone originale, però fu uno spunto e ci sta. Poi voglio dire, se non te sta bene in senso assoluto non mi dai i diritti, cioè voglio dire, ma d'altronde le opere alla fine crescono, nascono e diventano patrimonio dell'umanità anche per questo, che poi tra l'altro è il principio del Creative Commons, che noi comunque in qualche maniera, anche se fa un po' come ci pare, abbiamo sostenuto per 10 anni con i nostri podcast, perché il principio del Creative Commons è anche quello, non solo la libera distribuzione, ma in alcune versioni della licenza anche la reinterpretazione, il riutilizzo, il modo in cui tu metti all'interno del progetto umanità un certo tipo di discorso e poi lo reinterpreti in qualche maniera e cerchi di ricostruire anche la tua interpretazione, la tua visione, la tua costruzione, perché per me quella storia può aver significato quella cosa lì e per te può aver significato quell'altra cosa lì, quindi come può essere la stessa opera nel momento in cui io la ritratto? Non può esserlo, non può esserlo nel modo più assoluto, e quindi non vedo perché io debba essere così intransigente e assolutamente rigido nel dover fare quella cosa. Però questa è una mia visione da persona che, se dovesse un giorno fare un certo tipo di operazione, la farebbe in quella maniera lì. Comunque, vabbè, ragazzi, si è fatta una certa. Io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata, che doveva essere una cosa e poi è stata un'altra, ma chi se ne frega, alla fine questo è Buongiorno un cazzo, questa è Runtime Radio, il modo in cui facciamo le cose è tutto nostro, tanto non ci paga nessuno, non abbiamo nessun tipo di vincolo. Voglio ringraziare tutti quelli che nelle ultime 3 settimane hanno fatto donazioni sul PayPal di Runtime Radio. Vi ricordo che se potete continuate a farlo, perché è una cosa importante, e grazie a tutti quelli che hanno fatto queste donazioni abbiamo potuto fare anche delle rivoluzioni che vedrete nelle prossime settimane, piano piano cambieranno anche delle cose dal punto di vista anche esteriore. Detto questo, vi ricordo che questa sera alle ore 20 fino alle 20:45 ci sarà sempre Walter Smano con le orazioni della sera, e subito dopo, anzi non tanto subito dopo, diciamo un'oretta dopo, quindi alle 21:30 c'è Quando eravamo futuro, dove parleremo di Bud Spencer and Terence Hill, il grande mito insomma della nostra infanzia degli anni 70 e 80, in particolare gli anni 80. Grazie a tutti e buona giornata, un cazzo a tutti quanti, bella!